devo dire una cosa riguardante i miei genitori. Essi hanno deciso di cambiare ipermercato al fine di spendere meno. Se la mucca al nido costa poco, ci sarà motivo. E basta. Se la mucca al nido costa poco, ci sarà motivo. E basta. I pregiudizi della gente su chi va a fare la spesa al nido. Perché si spende poco e chi va a fare la spesa al nido, perché c'è roba scadente. Grazie Davide.